chi non conosce musica non conosce l'amore, e la musica è una cosa importante, un linguaggio universale. Quali sono le canzoni che ha amato di più, signora Merino? Le canzoni più impegnate, le canzoni di Vecchioni, le canzoni di Celentano. Celentano moltissimo, sì, sì. L'Adriano mi piace molto, perché proprio con quelle sue mosse. Poi noi qui sul Navile ne abbiamo fatto veramente, si gettonava sempre il Celentano, perché era un ragazzo del popolo, il ragazzo della via Gluck. E adesso che qui hanno tagliato gli alberi, mi è proprio venuto in mente Celentano. Dico, avevamo tre alberi, hanno portato via anche quelli. Cioè case su case, cemento, siamo stufi di essere cementati a Milano, no?